Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di GG Telespro. I musicisti ricordano molto bene i club, i teatri dove hanno suonato e potrebbero riconoscerli anche dall'odore. Il club dove mi trovo in questo momento e dal quale vi stiamo presentando questo appuntamento del soundcheck di Radio 24 ha un odore particolare, un odore indimenticabile, fatto della furore di tutti i musicisti che hanno calcato il suo palcoscenico. C'è questo retrogusto di birre pregiate e soprattutto l'umore di tutte le persone che quotidianamente da 30 anni lo hanno frequentato. Buon pomeriggio a Marco Tiriemi, qui al soundcheck di Radio 24, direttore artistico da 30 anni di uno dei music club più belli e più importanti d'Italia, il Big Mama di Roma. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio agli ascoltatori. Marco, allora sono al Big Mama per dedicare due puntate da questo celebre club dedicate alla nostra musica preferita. Io ascolto di tutto, ma ho una passione particolare per il blues e questo il Big Mama è un club che è nato per proporre il blues. Quanto è importante il blues e quanto è stato importante il blues per il tuo Big Mama? Beh, il blues è una musica che è alla radice di tutta la musica moderna. Abbiamo cercato di interpretare questo offrendo tanti punti di vista musicali, ma soprattutto cercando di seguire nel corso degli anni non tanto le mode quanto quelle musiche che a nostro avviso potevano restare e lasciare qualcosa nel sentimento delle persone. Sulle pareti del tuo ufficio c'è la storia del Big Mama, ci sono tantissime fotografie, per esempio quello è Alex Britti giovanissimo, no? Eh sì, ha cominciato proprio qui a calcare per la prima volta i palcoscenici. Ma quello è in una fotografia con Roberto Ciotti? Sì, perché all'inizio suonava nella band di Roberto Ciotti, ci è rimasto per un certo periodo, poi ha spiccato naturalmente il volo con le sue ali. Mi devi dare il numero di Roberto Ciotti, che resta il veterano del blues in Italia. Lo devo chiamare e devo assolutamente ospitarlo e farmi raccontare la sua vita e la sua storia da bluesman genuino. E te ne racconterà di storie sicuramente. Allora, altre fotografie ci sono, va bene, queste sono le più recenti, però ce ne sono alcune storiche. Questa è una foto, Mi ricordo di questo momento, ero presente perché ti avevo portato personalmente gli artisti proprio nel periodo di Doc, e nella fotografia ci sono Didi Bridgewater e Kenny Garrett della band di Miles Davis. Esattamente, era un periodo bellissimo, molto frizzante per Roma, per questa città, ma non soltanto, e sicuramente Doc è stato un programma che ha messo carburante non soltanto nella passione televisiva, ma soprattutto nella possibilità di far circolare a Roma e non solo così tanti artisti, e non ne abbiamo più visti così tanti e così bravi come in quella stagione. Comunque qui ci siamo divertiti tantissimo facendo blues e non solo, perché se il Big Mama è nato come punto di riferimento per il blues di Roma, poi in questo club ne sono successe di tutti i colori e continui a programmare ottima musica proponendo nuovi talenti, investendo quindi sul futuro, e anche veterani in circuito internazionale. Sì, ci proviamo nonostante la concorrenza della televisione, dello sport e di tanti altri fattori, però per fortuna esiste ancora un pubblico che ama sentire la vibrazione che arriva dal palcoscenico e quello che la musica dal vivo ti può trasmettere. Allora parleremo anche delle problematiche che esistono oggi nella gestione di un music club, ma passiamo subito alla musica. Allora, due puntate dedicate al blues e quindi partiamo dalla storia, cioè il bluesman per eccellenza, quello al quale si sono rifatti tutti, e vi sto parlando parlando del maestro di blues Robert Johnson, qui da un vinile dannata, esattamente una registrazione del 1936 in un super classico del suo repertorio che è Sweet Home Chicago. Vi stiamo parlando dell'ABC della musica, un brano che dovrebbero conoscere bambini e anziani, e soprattutto i musicisti che si approcciano oggi con questa attività, che siano musicisti di rock and roll, rapper e hip hop. Comunque Sweet Home Chicago lo devono conoscere, o no? Direi proprio che non possono farne a meno. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago. Non potevamo dare il via a questa puntata dedicata al blues qui dal Big Mama di Roma con Robert Johnson in un super classico come Sweet Home Chicago. Restate in contatto con il soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Sound di Stevie Wonder in questo tributo a Stevie Ray Vaughan con Stevie Ray Blues. E qui Stevie Wonder non ci fa sentire la sua voce ma la potenza della sua band dal vivo intorno alla fine degli anni 90, per celebrare anche lui questa puntata dedicata al blues qui dal Big Mama di Roma in compagnia del suo direttore artistico Marco Tiriemi. Tu hai mai incontrato Stevie Ray Vaughan? Non è mai venuto al Big Mama? No, purtroppo non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo personalmente. Però lì io vedo un suo autografo sulla parete. E questo è vero, sì, quello è un autografo su una sua fotografia che ha una storia un po' originale. Un giovanissimo Alex Britti alla fine degli anni Ottanta si dirigeva con mezzi di fortuna d'estate a Pistoia per l'annuale Festival Blues, un grande festival che tutti sicuramente conoscono, che si tiene da tanti anni, e chiese un passaggio ad un autobus, un pullman, sul quale c'era proprio Stevie Ray Vaughan che si dirigeva a Pistoia per andare a suonare. Ne scaturì un viaggio non molto lungo ma comunque sicuramente intenso per il nostro Alex, e anche questo autografo che poi lui ci ha concesso, non regalato, quindi prima o poi verrà a riprenderselo, sono sicuro, perché l'autografo di Stevie Ray Vaughan è un po' come l'autografo che fece a me Miles Davis, però è attaccato sulla parete di casa dell'autore Battaglia, che me lo scippò dopo l'intervista. Speriamo che rimanga qui ancora per un po'. Allora, parlavamo un po' delle ondate, delle generazioni di musicisti che sono passati dal Big Mama in 30 anni di carriera di questo bellissimo club. Io mi ricordo la mia generazione, quella dei primi anni 80, con una meravigliosa tribù di musicisti di jazz, da Roberto Gatto, Rita Marcotulli, Danilo Rea, musicisti di blues come Roberto Ciotti. Poi c'è stata una nuova generazione con Alex Britti e tutti gli altri. E adesso cosa sta succedendo? Beh, adesso la fruizione della musica è cambiata moltissimo, la tecnologia ha sicuramente rivoluzionato in modo irreversibile il modo di sentire la musica, e obiettivamente è... Scusami Marco, non ti voglio interrompere, però una cosa è ascoltare la musica in MP3 sul computer, una cosa è venire in un club e respirare anche l'afrore del musicista che sta suonando, oltre a sentirne il suono così come deve venire fuori da un amplificatore. Era proprio qui infatti che volevo arrivare, l'emozione, le sensazioni, le vibrazioni che può dare un'esecuzione dal vivo non sono sicuramente replicabili da nessun supporto tecnologico, quindi credo che ci sarà sempre uno spazio molto ampio per la musica dal vivo. L'importante è che ci siano anche musicisti che si preparino a poter fare questo. Beh, credo che comunque esistano ancora, cioè la musica, se fai il musicista lo fai per fare musica dal vivo, non solo produzioni discografiche. Ma sì, guarda, una cosa secondo me molto interessante è l'esplosione negli ultimi anni delle scuole di musica a Roma, parlo di qui perché qui viviamo, ma sì, so anche nel resto d'Italia, insomma, che c'è stato un forte incremento nella frequenza delle scuole di musica, e questo è molto importante perché significa continuare ad imparare a fare qualcosa con le proprie mani. E nelle scuole di musica la prima regola da imparare è amare, conoscere e rispettare il blues, la struttura del blues fondamentale per tutti i musicisti della passata e della futura generazione, e ce lo dimostra anche Jimmy Smith, The Incredible Jimmy Smith, con il suo organo Hammond, qui in un super classico di Willie Dixon intitolato I'm Your Hoochie Coochie Man, e questo riff, il riff portante, bisogna impararlo a memoria. Gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child's coming, gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women. Soundcheck, il suono della musica. Siete di nuovo collegati con il Big Mama di Roma, The Blues Club in Rome, qui a Trastevere, sempre con Gegé Telesforo, in compagnia del suo direttore artistico Marco Tiriemi, che ha aperto un cassetto delle meraviglie, il famoso secondo cassetto del Big Mama, dove ci sono, quanti saranno? 200-300 CD, ma CD registrati e realizzati qui al Big Mama, quindi una sorta di archivio personale. Sì, in realtà sono molte di più le registrazioni, quelle che vedi, diciamo, sono un po' quelle scelte. Ecco, quelle selezionate, fammi vedere qualcosa. Allora, questo qui. Allora, qui vedo gli Io vorrei la pelle nera con Alan Soul e Giorgia Todrani. Insomma, forse non tutti lo sanno, ma anche la cantante Giorgia è nata qui tra le nostre mura, più in generale nel panorama dei club romani, e cantava con suo padre, che è ancora un grandissimo vocalist, un grandissimo entertainer, si chiama Giulio Todrani, e suonava con questo gruppo degli Io vorrei la pelle nera, una formazione, una big band con una stupenda sezione fiati, in cui venivano cantate, celebrate le più belle scritture di rhythm and blues, di soul, un repertorio infinito che tuttora continua a divertire il nostro pubblico. Che il repertorio col quale si è svezzata Giorgia a casa proprio con il papà, e infatti i primi passi Giorgia su un palcoscenico li ha mossi proprio con gli Io vorrei la pelle nera affiancando il padre, quindi anche una combinazione complessa, non è mai facile lavorare con il proprio genitore, però in quel caso tutto funzionava perché la musica che proponeva gli Io vorrei la pelle nera in quel momento era divertentissima e soprattutto suonata da grandissimi professionisti, musicisti che lavoravano in giro per grandissime tournée, però avevano sempre il gusto di ritrovarsi e fare musica nei club a Roma in giro per l'Italia. Sì, era una specie di laboratorio aperto, ma soprattutto la questione ruotava intorno a questi due straordinari talenti, quello di Giorgia e quello del papà, che qualcuno ricorderà negli anni 70 con lo pseudonimo di Giulia Giuli, insieme ad un'altra famosa musicista, e direi che questa è un'ulteriore riprova del fatto che il blues bisogna conoscerlo davvero molto bene, anche se poi si prende una direzione diversa e ci si mette a fare musica completamente diversa come quella che fa Giorgia adesso. Sì, perché quando si parla di blues bisogna essere molto precisi se si parla del genere blues o se si parla di blues come forma e struttura armonica che ha poi condizionato tutta la musica, anche la musica contemporanea fino all'hip hop, e ci sono due signori che appartengono a due generazioni diverse, e vi sto parlando di due eccellenti chitarristi, anche se poi il più giovane è anche uno strepitoso cantante, quindi John Scofield e John Mayer, che si sono incontrati per rendere il loro tributo a Ray Charles qualche anno fa da un disco di John Scofield, in questo bellissimo brano scritto da Ashford e Simpson e portato al successo da Ray Charles, intitolato I Don't Need No Doctor, qui al soundcheck di Radio 24, John Scofield e John Mayer insieme. E siamo quasi in chiusura con John Scofield e John Mayer in I Don't Need No Doctor, qui al soundcheck di Radio 24 dal Big Mama di Roma col suo direttore artistico Marco Tiriemi. Naturalmente mi trattengo anche per l'appuntamento di domani, caro Marco. Voglio continuare a girare per il club e a cercare anche le mie tracce. Ma sono sicuro che ne troverai più di una. Per chiudere questo appuntamento, parlando di blues, vorrei chiuderlo veramente in bellezza. Allora, questo è un concerto dal vivo 1982 con protagonista quello che ancora oggi è considerato l'innovatore del basso elettrico, un musicista di grandissimo talento ma anche un personaggio molto particolare nella vita. Ma qui lo ascoltiamo con il suo basso elettrico e con una super big band che ci propone un classico del repertorio di Jaco Pastorius, un super blues intitolato The Chicken, e con The Chicken di Jaco Pastorius vi auguriamo buona giornata e naturalmente tanta musica e tanto blues. Soundcheck. Il suono della musica.